Buonasera, benvenuti su Radio Wombat. Bentornati, se così si può dire. Sì, siamo presso il locale della Polveriera e è iniziata adesso la diretta della seconda giornata del favoloso lancio promosso da Radio Wombat. Abbiamo avuto una serata splendida ieri sera presso il Next Emerson con veramente un'ottima cena, un fantastico documentario, tanti ospiti, tanti amici. È stata una gioia grandissima e oggi vi proponiamo la seconda parte dell'evento, che prevede un confronto con diverse radio ormai storiche nel panorama italiano, ma che comunque mantengono la loro caratteristica, che è la caratteristica che anche noi vorremmo, insomma, continuare a portare avanti. Inizieremo con un dibattito sulla riascolto, cioè come ascoltare le radio ora che le radio non sono così più diffuse, ma lo torneranno, speriamo, anche grazie a noi tutti. Quindi a seguire ci sarà un confronto fra varie realtà, con tanti ospiti da diverse parti d'Italia, e penso in successione partiremo dall'esperienza genovese di Radiogramma, per poi passare invece a Con chi si passava poi? Mi sembra Roma, no? Brescia, Blackout da Torino, per poi andare a Brescia e per finire con i compagni di Radio Onda Rossa da Roma. Con questo io vi do il buon ascolto, godetevi le prossime 3 ore di chiacchiere. Una sorpresa? Era una sorpresa. Vi ho detto troppo. Bene, signori, allora vi ho rovinato la sorpresa. Prendete i vostri posti qui sulle vostre seggiole, sui vostri divani o a casa nelle vostre poltrone. E buon ascolto. Ci siamo? Bene. Ok, ciao, sono Francesco H di Bologna e nulla, volevo un pochino provare a fare una chiacchierata su come si ascolta la radio, oltre a come la si produce, come noi ascoltiamo la radio, come la gente ascolta radio adesso rispetto al passato e in quali modi si può ascoltare, anche in modi non convenzionali. E allora, e tutta questa cosa, diciamo, ruota attorno al lancio della frequenza M di Radio Wombat, che implica una serie di cose abbastanza interessanti su come si consuma la radio. La radio negli ultimi anni nel nostro paese, in generale in tutti i paesi industrializzati, si è spostata verso la banda FM e ora si sta spostando verso la radio digitale, verso la radio su internet, se si può chiamare radio. Che hanno delle caratteristiche abbastanza interessanti, e questa cosa di riprendere le bande AM, diciamo che potrebbe aprire degli scenari un pochino diversi e potrebbe presentarci delle caratteristiche alle quali noi non siamo più abituati. Allora, partiamo da un minimo di infarinatura. Le radio propriamente dette, non quelle su internet, ma le radio che viaggiano nell'etere, ok? Sono dei segnali, musica, voci, eccetera, che viaggiano nell'aria e stanno su delle frequenze, ok? Possono esserci tante radio nello stesso momento, nello stesso posto, perché ci sono le frequenze. E ogni frequenza, ok, radio, ha un comportamento diverso in natura, è un fenomeno naturale che si comporta in maniera diversa, interagisce con l'ambiente in maniera diversa. E da quando è stata inventata la radio, diciamo che all'inizio la radio era una cosa che si usava su frequenze molto più basse di adesso, ok? Nel momento in cui è stata inventata la radio, le frequenze che si usavano erano fondamentalmente le onde lunghe e le onde medie, ok? Un attimo di terminologia. La frequenza diventa più alta quando l'onda diventa più lunga, quindi un'onda lunga a una frequenza diventa più corta, perdon. Quindi quando un'onda è lunga, grazie, quando un'onda è lunga la frequenza è molto bassa, ok? Quando la radio è nata si usavano quasi esclusivamente le onde lunghe, poi si è passati alle onde medie, poi alle onde corte, e ora noi adesso per esempio la radio FM le ascoltiamo nelle onde cortissime, quindi in frequenze molto alte, ok? Questo ha cambiato di molto le caratteristiche della radio, la fruibilità e anche chi trasmette, che strategie usa per poter raggiungere il maggior numero possibile di ascoltatori. Nel senso che tendenzialmente nelle onde lunghe e onde medie pochi trasmettitori, molto ingombranti, okay, permettono di raggiungere coprire grandi aree, ok? Quindi hanno bisogno di un territorio che relativamente può essere meno popolato, meno antropizzato, con meno infrastrutture, ok? Perché con pochi punti presidiati tu puoi coprire un territorio molto grande, mentre adesso con le radio FM, cioè onde cortissime, tu hai bisogno fondamentalmente di un trasmettitore ogni 50-100 km per coprire in maniera continuativa un territorio. Questa è una cosa che possiamo fare in Italia perché in cima a qualsiasi monte ormai riusciamo a portare la corrente, il segnale audio da trasmettere, eccetera eccetera, mentre una volta non era così, e ancora non è così nei paesi in via di sviluppo. In tutti i paesi più poveri la radio è ancora, diciamo, ha tecnologie che noi usavamo 40 anni fa, non tanto per ragioni tecnologiche, proprio per ragioni sociali e di come è popolato il territorio, ok? Tutti i paesi in via di sviluppo hanno poche stazioni che coprono enormi aree scarsamente popolate, ok? Perché non potrebbero fare altrimenti. Questo fa anche in modo che la maniera in cui gli ascoltatori, noi normalmente quando ascoltiamo le radio FM siamo abituati che se accendiamo la radio possiamo ascoltare quasi esclusivamente le stazioni FM della nostra città, quelle che trasmettono nella nostra città, o quelle nazionali che però hanno un ripetitore nella nostra città, e basta. Se voi prendete una delle vecchie radio, quelle di cui certa gente fa la collezione, in radica, eccetera, eccetera, andate a vederne la scala parlante, cioè quel quadrante con un ago che si muove e ti fa scegliere la frequenza. Se guardate nelle più vecchie addirittura, trovate scritto Budapest, Londra, Mosca, Tunisi, eccetera. Per un ascoltatore della radio di 50 anni fa era normale, ok, ascoltare la RAI, ma volendo anche noi ascoltare la BBC direttamente da Londra, quindi con nessuna partecipazione col governo locale, immaginatevi quando c'era il fascismo, infatti, o Mosca, o il telegiornale di Tunisi o di Teheran, ok? Perché una volta si ascoltavano molto di più le onde medie, soprattutto le onde corte, che permettevano di coprire distanze molto più grandi, senza nessuna infrastruttura sul territorio, proprio viaggiando attraverso l'etere per migliaia e migliaia di chilometri. Da questo punto di vista, quello che adesso si chiama radioascolto, che è l'attività più o meno amatoriale di ascoltare radio in maniera non propriamente convenzionale, cioè non come tutti noi ascoltiamo la radio FM della nostra città, ok? Ci permette di aprire una finestra su un ventaglio di segnali molto più ampi, soprattutto dal punto di vista geografico, ok? Radioascolto infatti al momento attualmente si rivolge subito nelle onde lunghe, medie e corte, e ci permette di ascoltare segnali praticamente da tutto il mondo. Si possono usare delle radioline molto normali come queste che trovate al mercato, di produzione cinese, con marche abbastanza fantasiose sopra, ma sono più o meno tutte uguali. L'importante è che abbiano le onde corte. In tutti i paesi poveri la gente usa ancora radioline del genere, perché le radio nazionali o le radio in generale trasmettono ancora in onde medie e in onde corte. E con queste radioline voi potete ascoltare radio estere, quindi avere magari anche punti di vista differenti, voci differenti, musiche differenti, suoni differenti da casa vostra. Quello che potete fare senza procurarvi una radio più o meno apposta è provare ad ascoltare le onde medie. Se voi provate ad ascoltare le onde medie, soprattutto se siete fuori città, perché ci sono molte meno interferenze, infatti tipicamente la cosa più comoda è l'autoradio se siete fuori in città, zonzo, se avete una macchina con dentro un autoradio, di sera, momento in cui le onde medie coprono distanze molto maggiori, se voi provate, non lo fa mai nessuno, ma se voi provate a mettere l'autoradio in onde medie a fare un giro, ascoltate più o meno tutte le sere, benone, praticamente tutte le stazioni in onde medie del Mediterraneo, quindi tutto il Nord Africa, tante stazioni iberiche e tante stazioni balcaniche, ok? ormai non ascoltate più niente di nord europeo, perché come in Italia il nord Europa ricco ha ormai spento tutte le emittenti AM, perché le ha rimpiazzate completamente con una capillare rete di ripetitori FM che coprono perfettamente il territorio, quindi non ne hanno più bisogno, li hanno spenti. Quindi già con l'autoradio della macchina o con la radiolina di casa, in certi punti potete giocare un pochino ad ascoltare radio che normalmente non si ascoltano, musiche che normalmente non sentite nelle radio FM. Per ascoltare cose ancora più interessanti vi potete procurare una radiolina come quella, costa poche decine di euro, 20 euro, 30 euro, roba del genere, che vi permette di ascoltare le onde corte. Le onde corte vi permettono, a seconda della frequenza e dell'orario, di ascoltare stazioni da praticamente tutto il mondo. Stazioni che spesso sono emanazione di stati, ma anche no. Soprattutto nei paesi in via di sviluppo c'è tutto un tessuto di associazionismo, anche religioso, che è molto attivo in questo campo, e soprattutto in Africa e in Sud America, che hanno una miriade di piccole stazioni in onde corte che con un pochino di lavoro e di pazienza voi potete riuscire a ricevere, e che normalmente vi danno dei punti di vista interessanti e decisamente diversi, diversi da quelle che normalmente la grande emittente broadcast statale vi offre. Qui qualcuno di voi ha mai provato ad ascoltare in AM stazioni estere? Ok, di sera ogni tanto capita e qualcosa di buono si trova. E in onde corte qualcuno ha mai provato? Ok, e nulla, quindi diciamo l'autoradio già vi dà un modo per aprire la finestra. Andando oltre, tecnicamente ci si può procurare una radiolina che ha le onde corte. Quasi tutte le vecchie radio della nonna, le vecchie radio di legno, sono degli ottimi ricevitori in onde corte con i quali potete ascoltare mezzo mondo, perché ai tempi era normale ascoltare mezzo mondo. E se volete aumentare ancora il potere delle vostre orecchie, vi potete cominciare a costruire delle antenne, che è un tipo di bricolage molto divertente che implica strutture fantasiose di legno e fili di metallo in giro per la casa, normalmente costruibili con una spesa praticamente nulla, ingombri enormi. E io non ho potuto portarvene qua perché ho la casa sepolta dalla neve, però anche solo per le onde medie, normalmente una radiolina in onde medie, come tutte queste, ha una piccola antenna creata da una sbarretta di ferrite qua dentro, che fa in modo che questa antenna sia direttiva. Cioè, quando voi avete una radiolina del genere, state ascoltando una radio in onde medie, provate a voltare la radio, questa antenna è assolutamente inutile in onde medie, potete tenerla chiusa, provate a voltare la radio e a vedere se il segnale migliora o peggiora, perché l'antenna che è contenuta qui dentro è direttiva, cioè funziona meglio in certe direzioni e peggio in altre. Per ascoltare, se non riuscite a sentire la radio bene come volete, potete montargli delle antenne esterne, anche collegandole qui, avvolgendoci un filo, e ci sono vari tipi di antenne, tipo le antenne a telaio, quelle vecchie antenne fatte a rombo, ok, a quadrato messo in diagonale, con dei fili che facevano il giro, che sono più o meno il nostro immaginario della radio 50 o 100 anni fa. Quelle servivano per ricevere le onde medie, e costruendovi una di quelle con due pezzi di legno e del filo riciclato potete ascoltare molte più radio, e potete magari, per esempio, isolare delle interferenze o puntarla dove si sente meglio, e selezionare bene o male quello che volete sentire anche sulla stessa frequenza. Con un'antenna di quel tipo potete ascoltare più radio sulla stessa frequenza, semplicemente orientando l'antenna se queste stazioni vengono da direzioni diverse, per esempio. Okay? E mentre per tipo le onde corte già diventa necessario normalmente mettere antenne sul tetto, perché più la frequenza cresce, più le pareti della vostra casa diventano uno schermo, okay? Attenuano segnale. Quindi in onde medie si riesce a ascoltare bene da dentro casa. Andando su di frequenza è meglio mettere l'antenna fuori da casa. Per esempio, un sistema tipico sono le antenne a telaio, cioè un'antenna fatta mettendo del filo attorno alla sagoma di una finestra, okay? Quindi affacciata verso l'esterno, e in quella direzione riuscite a ricevere abbastanza bene. Non la potete voltare perché è ancorata alla finestra, però è molto economica e vi permette di riuscire ad ascoltare fuori da casa. Domande? È inutile per le onde medie. Le onde corte per l'FM Questa radiolina, per esempio, copre le onde lunghe, le onde medie, le onde corte e le onde cortissime, quelle che noi chiamiamo FM. Ok, questa antenna serve solo esclusivamente per le onde cortissime, per FM e le onde corte. Perché? Perché la dimensione dell'antenna è sempre proporzionale alla lunghezza d'onda che noi vogliamo ascoltare. Questa antenna ha una dimensione rilevante alle onde cortissime, che sono lunghe nell'ordine dei metri, e alle onde corte, che sono lunghe nell'ordine delle decine di metri. La sua lunghezza diventa irrilevante, diventa un oggetto elettricamente rilevante alle onde medie e alle onde lunghe, che hanno frequenze molto più basse. Ok? Quindi la strategia di questo simpatico stilo telescopico, eccetera, non è più efficace per captare quei segnali. E come ti dicevo, per le onde lunghe e le onde medie c'è una sbarretta di ferrite con un filo avvolto attorno. Se avete provato a aprire una volta una radiolina, avete spaccato per terra una radiolina vecchia, avete visto una barretta grigia con un filo avvolto. Quella è l'antenna che riceve le onde medie e le onde lunghe. Okay? Per quello, quando ascoltate onde medie, lo stilo è assolutamente inutile. Questa è un'antenna di onde medie esterna, piccola. Piccola, ma ce ne sono anche più o meno uguali, a T molto più lunghe. Oppure ci sono le loop antenna, che sono dei cerchi che con del filo avvolto intorno. Spesso per queste radio qua, le loop antenna si usano anche senza alcun collegamento con la radio. Cioè, la loop antenna prende il segnale e riesce poi a far ricevere riesce poi quel segnale a farlo ricevere all'antenna di ferrite che c'è nella radio tramite induzione. Quindi semplicemente mettendo questo cerchio con dei fili intorno, ovviamente è calcolato, insomma, per le frequenze che vuoi ricevere intorno alla radio, la radio riceve meglio. Poi vabbè, va anche orientato, e si vendono anche delle specie di, alcune di queste antenne hanno proprio la basetta per poggiare la radio, quindi è tipo una specie di porta radio che fa anche da antenna per le onde medie. Per le onde corte invece a volte basta legare un filo all'antenna e stenderlo fuori la finestra, stenderlo in camera da un lato all'altro della camera, e comunque quell'antenna lì, quella telescopica, non viene usata proprio dalla radio quando ascolti le onde medie. Cioè, sono due circuiti separati che usano antenne separate. Sì, tipicamente per le onde corte potete cominciare con un filo teso più lungo possibile dentro la stanza e già dà dei risultati interessanti. Al problema che buona parte dell'elettronica moderna produce una quantità scandalosa di disturbi sulle onde medie e corte, ok? E quindi dentro casa voi, oltre ad essere schermati dalle pareti, avete il problema che tutte le vostre chincaglierie elettroniche moderne producono una quantità tremenda di rumore, rendendovi scomoda la ricezione. Quindi andando fuori casa, o spesso andando via da casa, se mai vi verrà il grillo di fare radioascolto, scoprirete, vi verrà una tremenda fobia della civilizzazione, degli apparecchi elettronici, delle linee di alta tensione e quant'altro, perché scoprirete che tutta sta roba emette onde radio e vi rompe le scatole mentre state ascoltando del Rai tunisino o della musica iraniana, perché vi va, e tenderete a emigrare in campagna in luoghi isolati ed elevati e tendere fili tra alberi in posti isolati, perché così potete ascoltare bene la vostra musica, ok? Sì, tipo casa mia, perché la gente va nel nulla, perché così non c'è gente col filo della candela del motorino che fa contatto e tira una pernacchia nel raggio di 10 km, ok? Succede. Comunque, vediamo, vi posso fare una carrellata veloce. Noi poi fino adesso abbiamo parlato di emittenti cosiddette broadcast, ok? Emittenti che sono fatte per essere ascoltate pubblicamente da una quantità più grande possibile di persone. Poi in realtà nello spettro elettromagnetico, nel mondo della radio, ci sono tanti altri segnali che non sono trasmessi perché voi li ascoltiate, ma voi potete ascoltarli se siete curiosi. Direi di provare. Dimmi. Allora, la sera succedono varie cose. Allora, come dicevo all'inizio, a seconda della frequenza, ok, i segnali radio si comportano, interagiscono con l'ambiente in maniera molto diversa. Ho già detto che a frequenze più alte, per esempio, le pareti o una serie di ostacoli sono più rilevanti e se vengono più attenuati, ok? Un cellulare in cantina magari non ti prende, ma la radina M prende perfettamente, perché sono onde più lunghe e attraversano il muro in maniera più, più efficace. Poi succedono una serie di altre cose molto interessanti. Per esempio, alle onde medie, ok, cambia la maniera in cui si propaga l'onda. Normalmente le trasmissioni in onde medie seguono la curvatura terrestre, ok, e praticamente al cambiare della quantità di vento solare che investe la ionosfera, papam, così, e no, semplicemente il sole, oltre che la luce che ci riscalda poca oggi, emette una quantità di altre particelle che sbattono contro una parte abbastanza alta, qualche centinaio di chilometri sopra di noi, della nostra atmosfera, ok, e la ionizza. E praticamente la rende un ottimo riflettore a determinate frequenze, ok? Quindi cambiando la maniera in cui viaggiano le onde radio alle onde medie e onde corte, ok? Questo fa in modo che le onde medie coprano distanze molto più lunghe di notte. Voi di giorno in onde medie ascoltate la RAI, quello che c'è ancora, forse riuscite a pigliare qualcosa di spagnolo, ma molto poco. Quello che dalla penisola sparano per le Baleari, e qua potete riuscire a prendere, proprio perché di notte ascoltate tutto il Mediterraneo, tutti i Balcani, tutta la penisola iberica, e se andate in un posto silenzioso anche qualcosa di più. Ok. Però se va dentro, 26 del primer tempo, il leader. Ascoltare le radiocroniche così è molto più interessante che con Ciotti, no? Cioè, sono molto più, e quando fanno gol è uno spettacolo. E quindi sì, è dovuto a questo, è dovuto proprio al fatto di come il sole, non la luce solare, ma altre radiazioni che emette interagiscono con l'atmosfera e fanno in modo che le onde radio viaggino in maniera diversa. E in onde corte, per esempio, tra notte e giorno c'è una grande differenza. Normalmente tu in onde corte usi le frequenze sotto i 10 MHz di notte, perché riescono a rimbalzare tra la ionosfera e la superficie terrestre, facendo una specie di zigzag che può coprire grandi distanze, e sopra i 10 MHz di giorno. Quindi uno deve anche un pochino abituarsi a pensare con l'ora alla quale sta ascoltando, e anche il paese che stai ascoltando, se nel paese in cui stai ascoltando in quel momento c'è luce o no, perché copre distanze tali che il notte e giorno riguarda dove sei tu, ma anche dove è la trasmittente. Se sta a 5.000 km, se è al tramonto o all'alba, cambia un casino. Spesso tu, se stai ascoltando qualcosa che rimbalza meglio con la luce solare, ascolti meglio all'alba a est, perché là sta arrivando il sole. Sì, devi pensare come gira la Terra, come gira il Sole, pensare che in questo momento, non so, nei Balcani è già l'imbrunire, e quindi si ascoltano cose diverse in momenti diversi. E questo fa anche in modo che nelle onde medie, soprattutto corte, le frequenze cambiano continuamente, perché non è come la radio in FM che va sui 103 e ci sta per 50 anni, perché le frequenze diverse funzionano meglio in zone diverse e orari diversi. Quindi le radio cambiano frequenza e tu o sai dove stanno o giri in continuazione finché non le prendi, spesso per caso. Spesso è un girare la manopola, un eterno zapping in cui incontri cose che il giorno prima non ascoltavi, per condizioni anche meteorologiche. Per esempio i fulmini disturbano. Un giorno di fulmini tu in certe bande non riesci a ascoltare. Ok. Le antenne attirano i fulmini, sì, sono degli ottimi barofulmini, sì. Normalmente puoi decidere se metterle a terra e fare in modo che attirino meglio i fulmini e ti brucino meno roba, oppure non collegarle a terra, attirano meno i fulmini, ma quando il fulmine arriva ti uccide, ti distrugge tutto ciò che c'hai attaccato all'antenna. Sì, sono dei buoni barofulmini. Poi c'è tutta una serie di, se sono sopra, fuori casa, se sono a punta, eccetera eccetera. Un'antenna, spesso le antenne per onde corte e onde medie sono dei lunghi fili posti in orizzontale, una cosa del genere non attira particolarmente i fulmini, non è né elevata né ha punte che elettrostaticamente attraggono molto i fulmini. Quindi cioè, che è correlato a quello che dicevate prima, Cioè che poi in realtà almeno io, senso, non è che in genere dico ah, adesso vorrei sentire una radio russa, quindi siccome è est mi sveglio all'alba e l'ascolto. In genere va un po' al contrario, cioè quando ho tempo gioco un po' e mi sento qualcosa. E quindi che succede? Tu smanopoli e poi incontri qualcosa che spesso è molto difficile capire che cosa stai ascoltando. Perché? Perché la lingua appunto è una lingua che tipicamente non conosci. Cioè se ti dice bene e la conosci, ok, quindi magari trovi una radio, non lo so, in francese, capisci qualcosa e cerchi di farti un'idea. Però pure francese potrebbe essere la qualunque. Cioè metà Africa è francofona e potrebbe essere una radio proprio dello Stato francese su territorio non francese, ma su cui comunque hanno i possedimenti, una radio invece di un altro paese che comunque è francofono, ma da qualsiasi parte potrebbe essere una radio francese. Però se hai fortuna almeno magari capisci quando gira il jingle che hanno detto. Dopodiché a volte la lingua proprio non la conosci, il segnale potrebbe pure essere disturbato, quindi a volte fai confusione, non capisci se quello che senti è tedesco, turco o farsi, non sai proprio che pesci prendere e che fai. In realtà se ci pensi è banale, però magari poteva non venire in mente, è che cerchi la frequenza su internet, cioè cerchi di capire, vai un po' a ritroso e dici ok, guardiamo chi è che trasmette su quella frequenza, tra le frequenze annunciate, e poi da lì ti fai un po' una scrematura. Se ti esce fuori magari una radio colombiana ma a te non ti sembra uno spagnolo, dici no, troppo lontano, la lingua non è spagnolo, boh, non saranno i colombiani. Vai un po' a esclusione e cerchi di capire più o meno che cosa hai ascoltato. Quindi spesso c'è, cioè, una buona parte del gioco è capire quello che stai sentendo che cosa è, anche perché poi, come dire, anche il genere musicale, finché becchi il Sirtaki, che è un grande classico delle onde medie, magari lo conosci, riconosce gli stili di musica all'interno del Medio Oriente, ognuno ha i suoi talenti, io non li distingo. Sì, anche perché a complicare il tutto c'è il fatto che storicamente la radio, la nostra amata radio, è anche stata un'arma, uno strumento di, diciamo, propaganda potentissimo, soprattutto al servizio degli stati, che si sono sempre tenuti molto stretto l'etere, questa risorsa che è l'etere, e quindi buona parte dei paesi ai tempi coloniali, ma anche dei nuovi paesi coloniali che hanno imperialismi, che stanno cercando di sfondare in parti del pianeta, usano tantissimo le radio, soprattutto le radio in onde medie e in onde corte, capace di coprire grandi distanze e di farsi ascoltare in paesi nei quali tu non hai ancora una presenza fisica. Ok, una volta, bene o male, per esempio la Voice of America o la voce della Russia si facevano ascoltare in tutto il mondo, avevano una rete di ripetitori enormi che si facevano ascoltare in tutto il mondo, soprattutto nei paesi a loro nemici, ok, per farsi una propaganda incrociata potentissima. Ora i cinesi trasmettono in 42 lingue. Per dire, la Cina, che come sappiamo è impegnata anche loro in un progetto di imperialismo molto pragmatico e che si rivolge molto ai paesi in via di sviluppo, noi qua quasi non ce ne accorgiamo, ma in Africa e in Sud America la presenza della Cina, che sta occupando nicchie che i paesi industrializzati europei e il Nord America non hanno occupato, se ne sono relativamente fregati, loro le stanno occupando. E per esempio a Radio Cina Internazionale, che io quando ho cominciato ad ascoltare le radio in onde corte a 15 anni, era una rarità, che andavi in giro a dirgli agli amici, se tu adesso provi a accendere una radio in onde corte, il 60% di quello che riesci ad ascoltare è Radio Cina, che trasmette in 42 lingue, ok? Coprendo praticamente tutta l'Africa, benone l'Europa, tutto il Sud America e tutta l'Asia, ok? Dando il suo punto di vista sul mondo, con un telegiornale, un corso di lingua cinese, eccetera. La Cina, dico perché lo notiamo, perché sta crescendo moltissimo adesso, dalla Cina e da una serie di grossi ripetitori posti in punti strategici. Per esempio, buona parte dell'Europa la copre dall'Albania. Che vuoi per eredità politica, per legami ereditati politicamente o ben pagata, ha un enorme trasmettitore di Radio Cina Internazionale, una fila di tralicci in mezzo alla montagna, e copre buona parte d'Europa. Buona parte del Sud America, mi sa, da Tristan da Cunha, presente? L'isola quella che sta in mezzo all'Atlantico, fra Africa e Stati Uniti, ok? O Sant'Elena, una roba del genere, una di quelle tre isolette che spuntano dalla dorsale oceanica, tipo, lì hanno qualche megawatt che spara verso Sud America, perché non hanno ganci, ganci sufficienti per poter montare qualcosa del genere in uno stato sovrano altrui. Okay. Però comunque sia tutti i paesi ex coloniali, la Francia, l'Inghilterra, eccetera, eccetera, hanno una lunga tradizione di trasmissioni in onde corte non destinate ai propri cittadini, ma al resto del mondo, per pubblicizzare bene o male la propria presenza, la propria visione del mondo e fare propaganda. Praticamente tutti i grossi conflitti negli ultimi 50 anni sono stati coperti da radio in onde corte ad hoc. Per esempio, più o meno dai tempi della prima guerra del Golfo, cioè, non mi ricordo come si chiama, c'è una radio, emanazione praticamente del blocco occidentale, più direttamente della NATO e degli Stati Uniti, che copre tutta l'area medio orientale dai tempi della prima guerra del Golfo, e ha continuato a farlo e esiste ancora e si ascolta, che ha un suo telegiornale trasmesso regolarmente in persiano, in arabo, eccetera eccetera, non in inglese, ok? Quindi è anche uno strumento di propaganda molto potente, perché potendo coprire distanze enormi geopoliticamente è uno strumento tremendamente potente, ok? E non sei implicato fisicamente, che è la radio, è fare cose a distanza, comunicare a distanza. E poi riguardo comunque sia al Sirtaki, la radio greca, che tutti i radioascoltatori d'Europa hanno sempre ascoltato tantissimo, perché la musica greca è bellissima e per addormentarsi è sempre stata la cosa migliore, è stata chiusa durante la crisi greca. Il governo greco ha chiuso la radio e televisione di Stato greca, okay, per un paio d'anni, finché la Cassazione, l'equivalente della Cassazione, ha deciso che un governo doveva avere un mezzo di comunicazione suo per dire le cose ai cittadini, non poteva delegarlo a privati. Ma in realtà ha continuato a trasmettere la radio e televisione di Stato greca, perché i dipendenti si sono rifiutati di chiudere, hanno occupato la sede, il quartiere gli ha continuato a portare da mangiare, questi hanno continuato a fare il telegiornale, a trasmettere Sirtaki, nonostante loro non esistessero come emittente di Stato. Finché lo Stato ha detto no, va bene, si può rifare, e li hanno riaccesi solamente formalmente, perché loro hanno continuato a stare accesi. Dettaglio. Però tutto, per esempio, tutta una vicenda che, ascoltando la radio greca, tutta la gente che ascoltava questa radio ha seguito, perché la cosa è stata illustrata e comunicata negli anni. Sì, è stata una radio statale di governo, diventata una radio pirata. Ok? E infatti anche i contenuti sono diventati particolarmente interessanti dal nostro punto di vista, no? Però adesso sono tornati molto più generalisti, guardate com'è. Ok, dicevo, oltre alle stazioni broadcast c'è una quantità di altre cose interessanti da ascoltare. Se c'è il tempo si può provare a fare una carrellata abbastanza veloce, a chi viene in mente qualcosa magari integri, in ordine di frequenza. Cioè, partendo dalle onde lunghe, c'è una banda broadcast di onde lunghe praticamente non più usata, almeno in Europa, ok? Una banda antichissima, penso che sia rimasta la Polonia, la Francia mi sa che ha spento, l'Italia ha spento 30 anni fa. Sì? Ok. Occhio, perché in Nord Africa ci sono un po' di stazioni in onde lunghe e trasmettono in francese, un po' perché la seconda lingua di buona parte del Nord Africa è di grandi estensioni, al fine più pratico. Quindi c'è tutta una banda broadcast delle onde lunghe in cui si può ancora ascoltare qualcosa di interessante, fino ai 270 kHz. Dai 270 kHz ai 530 kHz, dove cominciano le onde medie, c'è una zona dove si possono ascoltare principalmente i radiofari degli aeroporti, che sono un bel gioco. Sentirete delle cose che in morse fanno pi pi pi pi pi e danno delle sigle di tre lettere che sono le stesse che ci sono scritte sul biglietto dell'aereo quando prendete l'aereo. Potete ascoltare con una radiolina del genere gli aeroporti nel giro di qualche centinaio di chilometri. Io da Bologna ascolto più o meno tutta la pianura padana, un po' di arco alpino, eccetera. È un gioco. Con poi cominciano le onde medie dai 530 ai 1700, ok? Dove ascoltate appunto Balcani, Iberia, Italia, quel poco che è rimasto, e da lì in poi partono le onde corte, che sono una giungla, nel senso che le onde corte contengono una decina di bande broadcast intercalate da altrettante bande radioamatoriali, intercalate da una miriade è un veramente un universo dentro Leone Corto, uno ci può passare la vita a scavare, dove si parla, passa da comunicazioni navali, okay, tutte le comunicazioni marittime a lunga distanza sono ancora in onde corte, soprattutto quelle d'emergenza, comunicazioni diplomatiche, sistemi per trasmettere bollettini meteorologici, immagini meteo, previsioni meteorologiche, testi delle agenzie di stampa che in molti paesi ancora trasmettono, una volta che il giornalista all'estero prepara il pezzo, lo trasmette via onde corte alla sede, senza dipendere da nessuna infrastruttura. RTTY, sì, sì, in Medio Oriente ci sono ancora agenzie di stampa che mandano i pezzi codificati con una codifica digitale molto semplice che qualsiasi computer di quelli che abbiamo può decodificare, mandano dei testi in modo che il giornalista estero in campo remoto possa mandare alla casa madre il pezzo senza dipendere da infrastrutture altrui. E cos'altro si può trovare in onde corte? Oltre a radio, ci sono una quantità di segnali misteriosi, c'è anche un po' di progetti di gente che raccoglie e registra segnali misteriosi in onde corte e li pubblica. Uno, il più importante, è il Conet Project, trovate l'archivio su internet. La guerra fredda ha prodotto tonnellate di questa roba, immaginatevi. E soprattutto una cosa che ancora si ascolta un po', una volta era molto più comune, le stazioni di numeri, le number station, che erano voci in onde corte che trovavate un po' dovunque, okay, che trasmettevano delle sequenze di numeri e lettere pronunciati con l'alfabeto, con lo spelling, quello che usano anche i radiomatori, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, eccetera, okay. Apparentemente senza senso, okay. Io da piccolo penso di essermene trascritti 4 quaderni e aver cercato di vedere se in diagonale o ma niente. E questi erano messaggi criptati, era il sistema di comunicazione principale per le spie in missione in paesi esteri per ricevere istruzioni da parte del paese d'appartenenza. Cioè, il concetto qual era? Era il fatto che una spia con un blocchetto, con le istruzioni per, diciamo, con l'algoritmo, con le istruzioni per decrittare, decodificare il messaggio, e una normale radiolina commerciale in onde corte, ok, a Cuba, come in Italia, come in Persia, come in Sudafrica, poteva in casa sua ricevere questo messaggio, decodificarlo, ok, e ricevere istruzioni. Era una volta, era durante la guerra fredda, era pieno, praticamente tutte le spie in missione ricevevano istruzioni tramite queste stazioni e si potevano ascoltare. Poi dopo la gente, dopo un pochino, quelle più regolari, provava a fare congetture, provava a triangolare da dove trasmettevano, però tendenzialmente fino a tempi recenti Russia, Israele, Stati Uniti l'hanno fatto, in Sud America ce ne sono state varie, Cina lo fa tuttora. Mandare queste istruzioni e disturbare le istruzioni altrui, tutto ciò criptato e alla luce del sole, okay? Cioè, il concetto era che tu dovevi poter ricevere questa roba come un normale ascoltatore con una normale radiolina, senza attrezzature specifiche, così che quando ti entravano in casa e ti perquisivano, tu avevi una radiolina comprata al mercato e basta, e il blocchetto per decodificare, che era la cosa che ti mangiavi tendenzialmente, ok? E quindi trovavi cose del genere, trovavi una quantità di segnali militari, di segnali ripetitivi militari che servivano per attivare dispositivi a grande distanza, una quantità di sistemi antimissile e di peggio, eccetera, per dire funzionavano, attivati da segnali che tu sentivi per anni, in cui se cambiava un bit succedeva non sapevi che cosa. Tutto questo a 5.000 km di distanza, nascosti in un capannone, e cose del genere. Le onde corte sono una giungla enorme, e alla fine delle onde corte, a 30 MHz, cominciano le onde cortissime, dove nella parte più bassa ci sono soprattutto militari, okay, usi militari, fino ai 60 MHz dove c'era la televisione, poi c'è la polizia, per una serie di usi, soprattutto portatili, le polizie stradali e municipali, fino a sì, fino a... Vigili del fuoco, ordine pubblico, fare balliche, le cose, i cellulari, Ok. Sì, sì, che sopra. Io no. Dicono che si sente la stradale tipo a 70 MHz si sente, dicono. Poi ci sono le FM che vanno da 88 a 108, come tutti sappiamo, e da lì a salire praticamente all'infinito. La cosa interessante appunto è che tendenzialmente tutte le cose più nuove sono più in alto di frequenza, perché la tecnologia è andata evolvendosi per usare frequenze sempre più alte che hanno meno portata, ma ci sono più canali, ok? Sono più spaziose. Nel senso che nella banda AM ci sono 120 canali usabili. In FM pure è molto piccola, però per esempio la televisiva, per dire, è una banda enorme, ok? E così via fino alle bande cellulari, alle bande wireless. Però sì, la cosa interessante del radioascolto è che nelle bande basse, a frequenze molto basse, potete ascoltare cose molto lontane, mentre a frequenze molto alte potete ascoltare le cose fondamentalmente della vostra città, non di più. E poi ci sono i satelliti, è vero, che sono un altro mondo. Ci sono anche frequenze basse e satelliti. I satelliti una volta usavano frequenze basse, e anche lì è una giungla. Per esempio, un aneddoto: i satelliti, dopo che la gente ha smesso di usarli, continuano a stare là. E per esempio, da qualche anno c'è un gruppo di radioamatori brasiliani che chiacchierano usando vecchi satelliti militari abbandonati. Se sono camionisti, sono bravi e hanno una parabola bella precisa. Comunque sia, c'è tutto il mondo del satellite, che è un mondo enorme. Lassù ci sono tonnellate di immondizia, buona parte ancora accesa, soprattutto quando il sole illumina i loro pannelli solari, e che trasmettono cose, trasmettono segnali con i quali puoi anche comunicare. E anche quelli, con una radio abbastanza normale, buona parte si possono ricevere. Per esempio la ISS, la stazione ISS, la stazione internazionale, trasmette un segnale che comunica la sua posizione, e a volte trasmette anche delle comunicazioni da parte degli astronauti, che potete ricevere con una radiolina abbastanza semplice, non di queste, ma già quello che viene chiamato uno scanner, che è un oggetto che si compra abbastanza tranquillamente per 100 euro, ok? Potete ricevere i segnali della stazione internazionale che orbita sopra di voi. Ci sono dei siti che vi dicono quando passa sopra di voi, e lo potete ricevere abbastanza facilmente. Domande? Osservazioni? Oltre agli scanner ci sono degli oggetti molto comodi e costano molto poco. Alcuni di questi sono le classiche chiavette USB per il computer, per vedere la TV dal computer. La vecchia TV, no, anche la digitale. E che costano, le più economiche costano anche 8 euro, e tramite quelle si può fare radioascolto di una banda molto ampia, che va tipo dai sì, alcune scendono anche sotto i 50 MHz, altre vanno dai 50 MHz fino a 2 GHz, e con quelle si può ascoltare ad esempio la Stazione Spaziale Internazionale, si possono vedere, si possono scaricare dati che i satelliti mandano, tra cui anche le foto satellitari del satellite quando passa su di noi. Ascoltare la banda aerea, ascoltare le conversazioni dei piloti con le torri di controllo e ste robe qua, che sono un po' fuori le bande che stiamo esaminando oggi, però sono comunque interessanti. Prego. Io avrei finito, se non ci sono altre domande.